Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Finalmente, a Strasburgo, si sedette davanti a me un ometto di mezza età, con un basco in testa. Un tipico francese, insomma. Iniziai allora un lungo colloquio con il gentile signore esibendo il mio francese e fui meravigliato e orgoglioso che questi capisse tutto quello che gli dicevo. Sono Vanni Merani, abito a Pistoia e ho fatto tutta la vita l'insegnante, anzi dal 63 e continuo ancora a fare l'insegnante, prima per le scuole di Stato in Italia e all'estero, e ora ho un laboratorio e una scuola per adulti e non solo di scultura, di ceramica, e porto avanti ancora il mio compito. Please visit the website, but please visit Italy. Torino, Italy's first capital, with its 2000 years of history, today stands at the heart of a major process that is transforming the territory. Please visit the website, but please visit Italy. Lo so, è più forte di noi. Noi almeno una volta al mese dobbiamo sentire questa roba su YouTube. Poi tra l'altro il sindaco di Torino Fassino ha deciso di seguire le tracce nel solco del buon vecchio Rutelli, ha deciso anche lui di pubblicare un video in cui presentava Torino in quel modo. E noi non ci possiamo fare niente, però noi non ci possiamo fare niente nemmeno se siamo italiani, tutto sommato, no? Siamo italiani, non conosciamo un granché bene l'inglese. Facciamoci la pace con quella cosa lì. Per cui decidiamo o che c'è un traduttore oppure che mettiamo i sottotitoli. Io ho la sensazione che so io, nel Wisconsin probabilmente non ascolterebbero il discorso di Fassino, ma a New York sarebbero più contenti se loro parlassero in italiano e venissero presentati con dei sottotitoli, perché lì l'italianità verrebbe ancora più fuori. Ecco, sarà successo delle volte che il vostro dialetto o il vostro accento o la vostra lingua, cioè l'italiano o qualsiasi altra lingua parliate, lingua madre intendo, abbia tradito le vostre origini. Ecco, oggi parliamo di quella cosa lì. Buongiorno a tutti, sono le 16:10, io sono Matteo Caccia, siamo in diretta come al solito dallo splendido Sole 24 Ore, Radio 24, dalla serra disegnata da Renzo Piano, cioè dalla serra, adesso la serra la chiamiamo noi amabilmente, ma dall'edificio in cristallo disegnato da Renzo Piano. Noi ogni giorno raccontiamo una storia, voi siete qui. Ieri eravamo dal vivo allo store della Pirelli, oggi siamo tornati in studio e continuiamo a raccontare storie. Ogni giorno una storia completamente diversa. Ieri si parlava di corse, di macchine, oggi si parla invece di lingue, ma non solo di lingue e di origini, ma si parla anche di quel fare la pace con chi siamo, a prescindere dalla collocazione, dalla connotazione geografica, con quella cosa che siamo, con il nostro essere di provincia, del paese o della città. 349-238-6666, il nostro profilo Facebook è sempre quello lì, voi siete qui Radio 24. Massimiliano, mi succede tutti i giorni di tradirmi e soprattutto quando gioco a calcio, quando parlo in campano dopo aver fallito un gol segue spesso fa sì tutto run di un marcato accento bergamasco tipico delle valli del mio compagno di squadra Francesco in Argentina, dove ci amano. Ho detto tre parole, non metaforicamente, giuro, tre parole, mi hanno guardato felicissimi dicendo: ah, sei italiano. 349 238 6666. Ricordo un amico con cui lavoravo tempo fa, Federico Bianco, che mi raccontava di essere stato a Manchester per una partita di calcio. Lui è un grande tifoso juventino e erano a Manchester poco prima di andare allo stadio. Erano in un pub ed erano andati in auto, non chiedetemi perché, ma lui e il suo amico erano andati a Manchester in auto. Fuori dal pub parcheggiano la macchina, ovviamente su un posto in cui la macchina deve essere portata via, cioè verrà portata via, ma non leggono i cartelli, insomma non se ne accorgono, parcheggiano la macchina, entrano a bersi una birra. Dopo poco gli avvertono che la polizia gli sta portando via l'automobile e il suo amico di Torino come lui, che non parla molto bene evidentemente in inglese, esce e guardando il poliziotto, sapete quando unisci le mani come in preghiera e le muovi su e giù come per dire: ma cosa ho fatto di male? Guarda il poliziotto e gli dice: ma because, come dire, cosa ho fatto di male, ma because. 349 238 6666. Tizio, non mi ricordo più che ora abbiamo detto che dovevamo lanciare il racconto, ci siamo quasi, ah no, possiamo ancora andare avanti. Ah, dobbiamo lanciarlo, perfetto, benissimo, non avevo segnato l'orario, quindi visto che ogni giorno raccontiamo una storia, oggi raccontiamo la storia di Vanni, che è molto divertente perché somiglia un po' a quello, ma because. Nel 1962 tornai in Olanda. Già l'anno prima ero stato ospite di amici di mio padre, i coniugi De Corte. Per quasi un anno frequentai il reparto di plastica dell'antica fabbrica di ceramica a Delft. Fu per me un'esperienza fondamentale, che mi ha legato fino ad oggi alla realizzazione di lavori di grande impegno in terra refrattaria. L'azienda produceva infatti grandi bassorilievi, con una funzione decorativa nell'arredo urbano per la ricostruita Rotterdam, rasa al suolo dai tedeschi all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. In quegli anni, nel nostro bel paese, persone che per turismo o studio si recavano all'estero erano una rarità. Per cui, quando rimpatriavo a Pistoia, ero motivo di commenti compiacenti. «Ecco Vanni, reduce dall'Olanda!» appellavano gli amici e conoscenti con una certa ammirazione. Io ero giovanissimo ancora, avevo 15 anni, e frequentavo l'Istituto d'Arte di Sesto Fiorentino, la Ginori, la scuola d'arte, il studio d'arte nato proprio sotto l'egida della fabbrica famosa internazionale, la Richard Ginori. E mio padre, che anche lui, io sono figlio d'arte, lui artista, l'ultimo dei futuristi, aveva degli amici artisti e aveva collegamenti all'estero, in quanto direttore anche del Museo Civico di Pistoia, aveva all'estero questi amici in Olanda. E allora questi amici dissero: perché non ci mandi Vanni su? L'anno precedente raggiunsi l'Olanda in automobile. Fu per me un'avventura, mi sentivo partecipe di qualcosa di importante che pochi miei connazionali facevano. Solo gli emigranti che in quegli anni stipavano i treni e risalivano lo stivale su verso la Svizzera, la Germania, il Belgio, l'Olanda. Quei vagoni sembravano vere tradotte militari. Era agosto e per la prima volta, ricordo, percorremmo l'autostrada del sole, appena inaugurata. All'ombra delle Alpi, dentro le profonde vallate, la Svizzera, la Francia, il Lussemburgo, il Belgio, l'Olanda. Mi sentii privilegiato, pensando ai miei concittadini chiusi nella loro lenta quotidianità provinciale. Quell'anno invece raggiunsi Dordrecht, la città di residenza dei De Corte. Lo feci in treno, partito da Firenze proprio su una di quelle tradotte stracolme di emigranti provenienti da Caltanissetta, con già 15 ore, forse 20, di viaggio. Stipati, sudati, era luglio, 42 gradi c'erano a Firenze. Entrato sul vagone dovetti per l'affollamento rimanere fermo sulla piazzola d'ingresso con il mio carico di 3 pesanti valigie. Nonostante i finestrini aperti, gli odori di formaggi, insaccati, vino, insieme al caldo e alla massa di corpi sudaticci erano difficilmente tollerabili. Tutto questo era corredato da canti, voci, volgarità, mani generose che forzatamente mi spingevano ad unirmi ai loro brindisi, tracannando direttamente dal fiasco. Ognuno doveva dare una lunga sorsata, per non parlare di quelli che litigavano e che subito tiravano fuori i coltelli, oppure i commenti alle ragazze, tutte parigine. Io avevo con me, mi ricordo, tre valigie nelle quali in una c'erano le porcellane che io decoravo, quindi pesantissima fra l'altro. E in ogni modo io partì con queste tre valigie, con gli indumenti e gli strumenti di lavoro e arrivai in Olanda cambiando addirittura 3 volte, una volta a Basilea, una volta a Bruxelles, per arrivare poi in questa cittadina a Dordrecht, vicino a Delft. Finalmente arrivato a Basilea verso le 2 del mattino, cambio treno per Bruxelles e a Strasburgo si siede davanti a me un ometto di mezza età, con basco in testa, il tipico francese. Allora, con grande slancio, inizio un lungo colloquio con il gentile signore, esibendo il mio francese, e fui meravigliato e orgoglioso che questi capisse tutto quello che dicevo. Molte parole italiane le francesizzavo nella speranza di indovinarle. Insomma, non ci crederete, ma capiva tutto, mentre io capivo molto meno del suo francese. Dopo diverse ore arrivammo a Bruxelles e il mio occasionale compagno di viaggio scese dal treno e, salutandomi, aggiunse in un perfetto italiano: «Giovane, con codesto francese non può girare il mondo». Sì, era italiano anche lui. Ce soir, et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées brésiliennes, et moi je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belassiennes. La primavera scorsa ho ricevuto un invito per un matrimonio. Era un amico con cui avevo lavorato in teatro qualche anno prima. Subito gli ho detto che ci sarei andato, poi però non ci ho più pensato fino ai primi di luglio, quando ricevo una chiamata. È lui, domani è il grande giorno, e mi chiama per chiedermi, visto che si sposa in campagna vicino a Roma, se ho bisogno di un passaggio, di un alloggio o di una qualsiasi altra cosa. Io sono un po' preso in contrapiede, avrei bisogno di tutto, dovrei dirgli, anzi, per fortuna me l'ha ricordato, ma ovviamente non vorrei che ci rimanesse male. Quindi lo ringrazio e gli dico che sono a posto, no, che non vedo l'ora e che ci divertiremo un sacco. Appena chiudo la telefonata, faccio una scaletta delle cose da fare prima di partire. Dunque, la prima cosa è avvisare la mia fidanzata. È invitata anche lei e non lo sa ancora. Potrei dirgliele basta, ma mi sembra una mancanza d'attenzione, quindi le compro dei fiori e poi le chiedo di fare i biglietti per domani. Poi salgo in macchina e porto il cane dai miei. I miei sono sempre contenti quando gli porto il cane, ma se non li avviso in anticipo un po' si innervosiscono, e infatti è quello che capita, anche perché nella fretta non porto né il cibo né il guinzaglio. E non posso dirgli nemmeno che mi ero dimenticato del matrimonio, altrimenti è ancora peggio. Anzi, ostento una grande tranquillità. Mi fermo a cena con loro. Appena finiamo, saluto, ringrazio e mi fiondo a Milano. La mattina dopo, durante il viaggio, cerco qualche amico che ci ospiti per quella notte e che mi presti anche una macchina per raggiungere la festa. Una volta arrivati a Roma, andiamo di corsa a comprare un regalo, poi di corsa a stirare i vestiti per la serata, poi di corsa a recuperare la macchina. Appena salgo in auto mi accorgo che è da ieri sera a casa dei miei che non mangio e mi sale un po' di fame. Solo che fare uno spuntino prima di andare a un matrimonio è una cosa che non si fa, mi dico da solo, e quindi tiro dritto. Quando arriviamo, gli sposi sono raggianti e ci sono tante persone che non vedevo da un po'. C'è un pratone dove giocano a frisbee e due grossi ombrelloni. Sotto il primo c'è da bere e sotto l'altro c'è un tavolo su cui si stuzzica pane caldo con olio extravergine e patè vegetariani. Io ovviamente ho fame, ma c'è una grande ressa. Aspetto il mio turno. Assaggio un boccone di pane e olio, faccio i complimenti per la delicatezza dei sapori e poi mi faccio da parte. Si va avanti a salutarsi e a chiacchierare fino a quando non diventa buio e poi si passa direttamente alle danze. Io ho sempre più fame, ma mi sento il solito provinciale che se non si riempie di cibo ai matrimoni non è contento, quindi vado anch'io a ballare. Ce ne veniamo via solo quando è molto tardi. Sono quasi al casello per arrivare a Roma quando vedo in un piazzale un camioncino che vende i panini con la porchetta. Metto la freccia e mi fermo davanti al banco, lontano da guardi indiscreti. Appena scendo dalla macchina, il porchettaio mi squadra e mi dice: «Pure tu dal matrimonio? Guarda là, gli amici tua si sono nascosti per non farsi vedere». E mi indica una panchina appena dietro al camioncino. Saranno una decina, nei loro impeccabili vestiti eleganti, mordono dei pezzi di cotenna. Non li conosco, ma anche loro erano al matrimonio. Anche loro come me hanno pensato la stessa cosa e anche loro come me si sono fermati a mangiare. Potrei andargli incontro, farmi riconoscere, parlare con loro e ci faremo una risata del nostro epilogo inaspettato, però non lo faccio. Mentre mi prepara il panino, mi chiedo se sia meglio mostrarsi per quello che siamo, impreparati, provinciali, goffi, affamati, rischiando di andare incontro anche a brutte figure, oppure rendersi la vita impossibile per fare finta di essere diversi da quello che siamo. Il panino intanto è pronto, lo prendo in fretta e mi infilo in macchina, sperando di non essere visto. Aspetteremo ancora un'altra estate. In vetta una montagna, direi Vanni, nella foto che ci ha mandato, al punto che non si vede. Si vede uno sperone di roccia, una nuvola dietro di lui, una tenuta estiva da montagna, quindi non fa particolarmente freddo, e la sua faccia con i capelli appena appena bianchi che guarda dritta verso l'orizzonte. 349-238-6666, insomma, farsi riconoscere attraverso la lingua o il dialetto. Mia mamma, dice Ferdi, dice alla reception in Tunisia 81 al posto di 82, 81 e 81. giusto? Oppure su Twitter ci scrivono, ci scrive Fausto, no, vabbè, chi per lui, la perla di un amico che disse ad un inglese happy you, happy all, traduzione dal toscano, contento te, contenti tutti. Pronto Vanni? Pronto. Buongiorno, ciao, come stai? Sto bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? Mi trovo nel mio studio in casa. Perché tu hai uno studio in casa e poi ne hai uno fuori anche, o sì, semplicemente? Sì, ce l'ho uno fuori, sì, e c'ho questo laboratorio. È laboratorio, un laboratorio comunale del comune di Agliana, un paese limitrofo a Pistoia, che dirigo da 20 anni e che mi sostituisce l'insegnamento nelle scuole di Stato che ho terminato nel 2000. Perché tu, Vanni, ce l'hai detto, quindi noi abbiamo fatto una ricerca. Il tuo babbo, tu sei un figlio, sei un artista e sei un figlio d'arte. Perché il tuo babbo, Vasco Melani, giusto, correggimi se sbaglio, è stato un grande artista italiano e pistoiese nella fattispecie, perché siete di Pistoia. No, pistoiese no, no, mio padre, no, cioè la nostra famiglia viene da lontanissimamente da Pistoia, perché Melani sono tutti da Pistoia. Okay. Però mio nonno stava a Firenze, mio padre è nato a Firenze e ha vissuto l'ambiente fiorentino e poi è andato a 18 anni, è andato a Milano. Ma quindi lui apparteneva ai futuristi, dicevi? Sì, sì, lui era il cucciolo dei futuristi. C'è stata una bella mostra a Milano, al Palazzo Reale, nel 93, su Cesare Andreoni, del gruppo di Cesare Andreoni. Sì. E quindi mi vennero anche a trovare, perché babbo faceva parte di quel gruppo lì, con Munari, con Fillia, con questi artisti. Insomma, quindi lui era il cucciolo, era il più piccolo, ecco, aveva 19 anni, poi 20 e poi tornò a Firenze. E tu che cosa fai, Vanni, invece? Beh, io ho seguito le orme di mio padre, non certo con quel suo splendore, però faccio lo scultore, faccio il pittore, insegno dal 63, quindi sono 50 anni che mi occupo di fare qualche cosa per gli altri, che mi dà molta soddisfazione. Non credevo anzi di essere così allegato all'insegnamento solo quando ho lasciato la scuola di Stato, mi sono reso conto che invece l'insegnamento a me piace. Ma a quale corrente appartieni, se ha senso parlare di corrente? Io ormai sono un residuo fossile del XX secolo. Cioè che tipo di opere fai? Sono figurativo. Figurativo, ok. Fortemente legato a quelle che sono le nostre tradizioni culturali, cercando in qualche modo di esternare le parti più importanti, più peculiari della nostra storia. Vanni, sei mai tornato in Olanda a farti quel viaggio? Quello mi manca. Io sono stato 2 anni lassù e poi mi sono detto voglio tornare e qualcuno mi ha detto: guarda, se l'ha vista in quegli anni lì, non ci tornare ora, ci rimarresti male. Ok, sì. Ti è mai più capitato di parlare in francese con un francese vero? Sì, vabbè, no, dopo ho insegnato in Svizzera al villaggio dei bambini, a Kinderdorf su Trogen, nella Svizzera tedesca. Ho avuto esperienze all'estero di insegnamento, però mi sono un pochino, come dire, ho studiato un po' il tedesco, insegnavo in lingua tedesca e anche mi sono cimentato qualche volta in francese, che ho migliorato un pochino. Senti, se volessimo vedere qualche tua opera, dove la vediamo? Senti, tu vai, clicchi immagini Vanni Melani su ok, su. Banalmente, scusami la domanda stupida, giustamente basta inserire Vanni Melani e fare una ricerca per immagini. Vanni, ti ringrazio moltissimo. Stai disegnando o producendo qualcosa in questo momento? Sì, sì, sto facendo dei piccoli lavori, ho sempre fatti piuttosto grandi e adesso invece sto lavorando nel più piccolo, forse sarà colpa dell'età, perché ha 69 anni. Hai 79 anni? Sei, perché avevi la voce di un ragazzino, quindi mi stavo sì, per no, stupire. No, ma ancora vado in montagna, ancora arrampicucchio. Dove sei? Ancora... Dove sei in quella foto lì? Sono sugli Appennini tosco-emiliani, sono sul monte, sulla cresta che va verso il monte Giovo. Lago Santo Modenese. Vabbè, insomma, è come se lo sapessi. Vanni, davvero, grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao, a presto, grazie. Complimenti. Grazie ciao. Mille, ciao, ciao, ciao. 349-238-6666. A Poznan sono stato preso per austriaco da dei tedeschi, a Madrid un tassista mi ha preso per basco. Festival medievale dell'isola di Gotland, nel Bar Baltico, che già Andrea... Uno si domanda perché andare fino a Gotland al festival medievale, sarà sicuramente straordinario. Mi hanno sgamato, tu sei italiano. Una volta allo stadio finii per una serie di coincidenze nel settore della squadra di casa. Un poliziotto mi fece repentinamente spostare nel settore ospiti perché il mio accento stava rivelando inopinatamente la mia appartenenza alla squadra in trasferta. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sono Mauro Pescio, sono Tiziano Bonini, Margherita Ina e Gianmarco Ferronato, che torna finalmente al comando del mixer di là dal vetro. Anche per voi siete qui. Voi continuate a raccontare storie, continuate a scrivercele, voi siete qui, @radio24.it. Ascoltateci la mattina all'alba, il pomeriggio in diretta, in streaming, sul DAB, anche mi dicevano prima, altrimenti in podcast dal sito di Radio 24. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Vanni, la storia di oggi era la sua, anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Massimo Novelli, vivo a Tricesimo in provincia di Udine, la storia di domani è la mia e parla dei fatti che si sono svolti nell'84 quando abitavo a Caorle, vicino a Venezia, in quel mare. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.